si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica e buona Pasqua, soprattutto ben ritrovati. Si può fare il nostro antidoto settimanale alla depressione da cronaca e da cattive notizie. Cerchiamo di riportare il buon umore scovando nelle pieghe dell'attualità qualche buona pratica, qualche storia virtuosa. Allora, un po' di notizie si può fare della settimana. Bari, il comune dalla lotta all'evasione, un tesoretto di 23 milioni di euro. Nel 2011 gli accertamenti sui cittadini che non avevano pagato le tasse hanno permesso di recuperare 23 milioni di euro in più, una somma considerevole che ridimensiona o quantomeno bilancerà i tagli previsti ai trasferimenti statali. Il comune dunque non dovrà più aumentare le tasse e questa volta a pagare non sono sempre gli stessi ma gli evasori. Andiamo in Emilia Romagna, treni 2 mesi gratis ai pendolari per i risarcimenti delle nevicate, 2 mesi di abbonamento gratuito per i prossimi 12 mesi per i pendolari emiliano-romagnoli come parziale compensazione dei disagi subiti l'anno scorso. Succede in Emilia-Romagna, le modalità operative per avere questo bonus saranno comunicate nei prossimi giorni. Allora state in campana, amici pendolari dell'Emilia-Romagna, e non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Una notizia di Green Economy che riporta il sito architetturasostenibile.it: pneumatici riciclati per asfalto ad alte prestazioni nelle strade di Torino. Pensate che ogni anno nel nostro paese si consumano 25 milioni di pneumatici, che sono 400.000 tonnellate di materiale. Il progetto T-Rec for Life si chiama, è finanziato dalla Comunità Europea, è lanciato dalla provincia di Torino in collaborazione con numerosi partner tra cui il Politecnico di Torino e il Centro Ricerche Fiat, e prevede la realizzazione di 5 km di pavimentazione a Torino in modo da verificare sul campo le prestazioni delle nuove miscele bituminose, si chiamano così. Ultima notizia, una segnalazione di un'iniziativa presentata qualche giorno fa a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Adotta un contadino. Da qualche mese una ventina di famiglie acquistano regolarmente verdura e frutta da produttori biologici locali. I prodotti sono freschi, sono buoni e soprattutto i contadini possono contare su un'entrata certa e quindi possono aumentare, migliorare, ristrutturare la loro produzione. Una buona pratica che speriamo possa essere esportata anche altrove. Queste sono alcune notizie si può fare della settimana. Aspettiamo le vostre segnalazioni sul profilo Facebook si può fare trattino Radio 24. E poi durante la settimana non trascurate la nostra segreteria telefonica 800 28 12 12, il messaggio salvare l'Italia in un minuto. Questa settimana si è parlato come sempre di tasse, soprattutto a livello politico, ma anche di cambiare la legge elettorale. E allora sentite come questo ascoltatore ha messo insieme le due cose. Sono Fabio, 40 anni, padre di famiglia, sono un dipendente. Pago le tasse sul mio stipendio, pago le tasse sulla mia casa, pago le tasse sulla mia televisione, sul mio mezzo di trasporto, sul mio telefono, su tutto quello che faccio pago le tasse. Io non sono un evasore, io sono un derubato. Il mio governo è tra i più pagati del mondo e non posso mandarli a casa, perché se voto loro hanno le liste bloccate e con le liste bloccate decidono loro chi mi governa. Io non decido più niente. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Voglio ritornare alla campagna. Voglio zappar la terra e fare legna. Ma vivo qui in città, che fredda sta tribù. Non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu. Io non mi diverto più. Sarà per ritrovare questo cielo blu, sarà perché l'amore per la campagna, come dice Toto Cutugno, come cantava anni fa, non ci abbandona mai. Sarà per esempio anche per risparmiare rispetto ad altre forme di vacanza in grandi alberghi o per riposarsi davvero quando si hanno a disposizione pochi giorni di ferie, come in questi giorni di Pasqua. E così, anziché mettersi in coda davanti a qualche mostra, molti italiani preferiscono andarsi a rilassare in un agriturismo. Fatto sta che gli agriturismi sono sempre più tra le vacanze preferite dagli italiani, e proprio mentre Federalberghi in questi giorni stima un calo del 10% delle visite, insomma, quindi anche degli introiti economici per il Ponte di Pasqua, c'è chi invece segnala una ripresa di interesse per questo tipo di vacanza, per gli agriturismi. In particolare Agriturist segnala un aumento delle visite sul suo sito. Ne parliamo con Giorgio Losurdo, direttore di Agriturist. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica un po' di questo interesse che hanno gli italiani, ritrovato, che gli italiani mostrano per questo genere di vacanza nell'agriturismo. Ma è un interesse legato proprio al modo in cui si stanno trasformando le vacanze, che sono sempre più una necessità di ricaricarsi, di relax, di distensione. E quindi nell'azienda agricola si trova innanzitutto la buona tavola, questa è una cosa che sicuramente aiuta, poi si trova sicuramente un ambiente silenzioso, tranquillo, il verde, tutte cose che sembrano scontate ma ormai lo sono sempre meno, e quindi, come dire, l'agriturismo prende quota sotto questo aspetto. Poi ci sono anche coloro che vanno in campagna per fare delle attività, quindi ci sono agriturismi con i cavalli, ci sono agriturismi che organizzano corsi di artigianato, insomma succedono un sacco di cose e ce n'è per tutti. Ecco, sì, appunto, agriturismi dove si fanno delle attività, percorsi, cavalli, piscine, terme, oppure agriturismi magari più banali, dove si va pochi chilometri fuori città semplicemente per fare un pranzo tra amici, magari a base di prodotti locali. Come si sceglie però, Losurdo, un agriturismo? Perché l'offerta è davvero ampia, e come si fa a orientarsi? Ma direi che da quando esiste internet è tutto molto più semplice, intanto perché le persone sono più abituate all'agriturismo, che non è più un fenomeno per salutisti o ecologisti, ma è una vacanza assolutamente ormai che interessa tutti. E poi perché appunto attraverso internet si hanno talmente tante informazioni su quello che ciascuna azienda agricola offre, che la scelta è assolutamente, diciamo, trasparente. Quello che è da raccomandare è di vedere che siano, come si suol dire, veri agriturismi, quindi che raccontino non solo l'ospitalità ma anche l'azienda agricola, perché oltretutto quello è uno degli elementi che incuriosiscono. Ecco, quindi il vero agriturismo, Losurdo, è quello dove c'è anche l'azienda agricola, è questo che ci sta dicendo. Diciamo che è l'unico agriturismo, per la verità, più che il vero, perché non esiste quello finto. Però ci sono molte strutture turistiche rurali che, siccome l'agriturismo è di moda, si autodefiniscono agriturismo senza esserlo, e quindi poi magari le persone pensano che ci siano tanti tipi di agriturismo, ce n'è uno solo che si svolge in un'azienda agricola, che ovviamente può essere più o meno grande, più o meno con animali, avere insomma le sue caratteristiche, ma comunque deve esserci un'azienda agricola. Ecco, lei mi diceva prima di fare l'intervista, quando ci siamo sentiti, l'andamento del turismo negli agriturismi è un po' altalenante, anche se in crescita nel corso degli anni. Voi adesso avete registrato, in vista di queste vacanze di Pasqua, un aumento quantomeno del traffico sul vostro sito, quindi un'indicazione ancora di interesse. Ma sì, è un fatto abbastanza sorprendente, perché è ben chiaro che la Pasqua è, sì, ci sono anche stranieri che si spostano per Pasqua, ma insomma continua ad essere un fenomeno di vacanza soprattutto interno, e gli italiani la propensione a spendere in questo momento per le vacanze l'hanno molto bassa. Questo grandissimo numero di visite rispetto alla stessa antipasqua, chiamiamola così, dell'anno scorso, fa pensare innanzitutto che si cerchi la possibilità di andare in un posto dove si spende poco. E poi probabilmente c'è anche un altro aspetto, che l'agriturismo, come dire, cambia scenario in maniera assolutamente, diciamo, radicale, anche a pochi chilometri da casa, e quindi anche il caro benzina in qualche modo si riesce a assorbire con queste cose. Insomma, quando uno va in agriturismo non è tanto importante andare lontano, è importante andare soprattutto in un bel posto. E va bene, insomma, io la ringrazio, anche perché lei ha citato il caro benzina, noi tra poco ne parleremo, sperando di dare qualche buona notizia anche qua. Intanto grazie Losurdo, direttore di Agriturist, e magari ci prepariamo ad un pranzo di Pasquetta in un agriturismo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, dicevamo poco fa, parlando di agriturismi, che la gita fuori porta può essere una gita anticrisi, così anche per combattere il caro carburanti. Si fanno pochi chilometri, ci si sposta poco dalla città. E l'impennata dei carburanti per il ponte di Pasqua, così hanno titolato i giornali in questi giorni. Il tema, insomma, non è nuovo. In prossimità di ogni vacanza e di ogni prevedibile spostamento di automobili da parte di milioni di italiani, i prezzi della benzina e del gasolio si impennano. Adesso siamo oltre 1,90 euro per la benzina, in alcuni casi si sfiorano i 2 euro. Ma c'è un modo per risparmiare qualche cosa. Bisogna cercare, per esempio, con attenzione quei distributori che applicano tariffe più basse, le cosiddette pompe bianche. Sono sempre di più e meritoriamente il Codacons, l'associazione di consumatori, le recensisce tutte nel suo sito, regione per regione. E allora non resta che trovare quella più vicina alla nostra città. Io saluto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Buongiorno, buona Pasqua. Buongiorno e buona Pasqua. Prima di tutto ci spieghi questo, poi parliamo dell'elenco sul sito che voi avete messo, così ognuno può andare a trovare la pompa bianca più vicino a casa. Perché costa meno la benzina in questi distributori, Rienzi? Poi... costa meno perché loro non si riforniscono attraverso le grandi bandiere delle sette sorelle petrolifere, cioè delle grandi marche dei produttori di petrolio, ma si riforniscono dal grossista che fa il miglior prezzo e rinunciano a un po' di ricarico. Quindi in questo modo si riesce ad arrivare anche a 10 centesimi al litro in meno, 10, 15, 8, insomma, secondo i casi. Però naturalmente facciamo attenzione, perché poi, come sempre, succedono gli scari. Adesso ho letto sul giornale che alcune di queste vendevano benzina truccata, ma anche sì, è accaduto, quelle non sì, sì, bianche sì. Sono state no, questo, le truffe stanno, possono accadere ovunque. Attenzione, quindi, perché ci può essere pure chi ha interesse a far uscire la notizia che queste pompe bianche hanno venduto benzina truccata per ritornare alle altre pompe. Quindi quello è un fenomeno, l'imbroglio sta dappertutto. Quindi basta avere un po' di attenzione, sì, ma sicuramente si risparmia. Sì, insomma, c'era qualcuno che si era organizzato con delle cisterne mobili e faceva finta di avere un distributore, in realtà era tutto in nero e quindi era una truffa. La benzina costava sì poco, però non è questo il modo, naturalmente, per risparmiare. Lei diceva 10-15 centesimi al litro di risparmio che si possono ottenere. Voi avete messo sul vostro sito quante sono le pompe bianche in Italia? È un fenomeno che sta crescendo? Sta crescendo, sono circa 2000. Noi non le abbiamo tutte, perché per averle dovete sapere che abbiamo dovuto fare un ricorso al Tribunale Amministrativo, cioè niente, il Ministro dello Sviluppo e le regioni di meno, sì, non ci hanno voluto dare mai questo elenco. Pensate in che condizioni viviamo. E perché? Abbiamo dovuto chiedere un ordine del Tribunale per avere questo elenco. È una cosa vergognosa, non esiste un elenco ufficiale, un'associazione che li raggruppi, anche perché sono perseguitati dagli altri benzinai. Senta, la stanno venendo a prendere la polizia per... è un'ambulanza purtroppo, no, sì. Vigili del fuoco. Giù. Perché adesso è passata, mi dispiace, ma stando per strada purtroppo capita. Perché devo dire che l'effetto ottico di quello che siete riusciti a raccogliere voi sul vostro sito è piuttosto interessante, perché uno, sapendo dove deve andare o la regione in cui vive la città, ha sott'occhio questa mappa che è piuttosto preziosa. Ci sono però... anzi, posso invitare i cittadini, se loro ne hanno qualcuna, ne conoscono qualcuna che non è nell'elenco, ce lo comunichino dopo aver verificato che effettivamente i prezzi sono migliori, perché noi li inseriamo in elenco, così come quando vedono che qualcuno di questi in elenco fa il furbo e aumenta i prezzi, ce lo comunichino, perché noi li togliamo dall'elenco. Senta, lei diceva un fenomeno in crescita, fortunatamente adesso sui distributori di benzina c'è stato anche un provvedimento all'interno del pacchetto liberalizzazioni. Secondo lei si va anche qua nella giusta direzione? Possiamo ben sperare, insomma, per il futuro che questa cosa sia sempre di più a portata di tutti? Dunque, guardi, era partito bene questo, era partito bene per i tassisti, per le banche e quant'altro. È arrivato un po' maluccio, perché alla fine è limitatissima la possibilità di approvvigionarsi verso altri grossisti da parte di quelli che hanno la bandiera famosa delle sette sorelle, e quindi è limitata fuori dalle città in una certa percentuale di quantità di petrolio, eccetera eccetera. Quindi non è granché, però ecco, se lei mi chiede se siamo sulla strada giusta, certo, la strada giusta è quella, ma purtroppo abbiamo visto che questo governo poi ha ceduto alla lobby dei petrolieri, alla lobby dei farmacisti, alla lobby dei tassisti. I farmaci pure si dovevano poter vendere, con la presenza ovviamente del farmacista a garanzia della salute, anche nei supermercati. Niente, non si è tenuto nemmeno questo, quindi non è che siamo tanto contenti. Va bene, staremo a vedere. Intanto accontentiamoci di andare sul sito del Codacons a cercare il distributore dove si può risparmiare la pompa bianca più vicino casa e cominciamo così a creare un po' di mercato su questo. Grazie intanto Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buona giornata e buona Pasqua. Buona giornata, buon lavoro, buona Pasqua. Insomma, se volete però risparmiare ancora di più, oppure se l'auto non ce l'avete proprio, non preoccupatevi, siete in buona compagnia, perché sono sempre di più quelli che scelgono di condividere l'automobile per fare i loro viaggi. Il concetto è piuttosto semplice, vecchio quanto il mondo, insomma si riempie l'auto e si risparmia così notevolmente sui costi di autostrade e carburanti. Per trovare i compagni di viaggio ci sono un sacco di siti internet, di agenzie. Noi abbiamo convocato il fondatore responsabile di uno di questi siti, postoinauto.it, Olivier Bremer, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Un giovane italo-tedesco che ha fondato insieme ad altri questo sito. Quali sono le mete preferite in questo periodo nel quale avete riscontrato un incremento di persone interessate a viaggiare in questo modo, Olivier? Sì, innanzitutto abbiamo riscontrato un aumento notevolissimo quest'anno rispetto soprattutto all'anno scorso, proprio anche a seguito del caro benzina. Abbiamo avuto nelle ultime 4 settimane 16.000 posti in auto condivisi. Per quanto riguarda le mete, sono soprattutto le lunghe distanze, quelle che interessano di più, perché chiaramente sulle lunghe distanze si riesce a risparmiare tantissimo, appunto dividendo le spese per benzina e pedaggio. Quindi soprattutto magari persone che lavorano nel nord Italia, che però trascorrono Pasqua al sud, in Puglia, in Campania, queste sono mete abbastanza richieste. Quindi viaggi diciamo anche un po' di necessità, non proprio viaggi di piacere, cioè il ritorno a casa di chi lavora fuori dalla sua zona d'origine, per esempio, questo è un tipico caso. Certo, tornare a casa a Pasqua no, è praticamente un obbligo, no, per vedere la famiglia. Certo. Quindi se si arriva a spendere 200 euro in macchina da soli, allora perché non trovare altre persone con le stesse esigenze di budget, che ormai sono tantissime in tempi di crisi, di caro benzina, e quindi dividere le spese, quindi da 200 euro si passa a spendere magari 60-50 euro a testa, quindi un risparmio del 75%. È notevole, si dice carpooling, no? È così l'espressione. Sì, noi preferiamo dire autocondivisa, no? Che è un termine magari più comprensibile per tutti. Sì, e poi usiamo l'italiano una volta ogni tanto. Qual è il profilo dell'utilizzatore dell'autocondivisa, Olivier? Cioè l'età, maschio, femmina? Innanzitutto sono soprattutto giovani, soprattutto per esempio studenti, quindi sotto i 35 anni, ecco, sono la maggioranza dei nostri utenti. Soprattutto all'inizio erano soprattutto uomini, però stiamo riscontrando che effettivamente anche le donne sono propense a questo nuovo tipo di spostamenti, ormai sono più di un terzo e è una tendenza che è in continua crescita, grazie anche per esempio al Viaggio Rosa che abbiamo noi, che è un sistema di condivisione dell'auto riservato alle donne che vogliono viaggiare solo con altre donne. È un movimento in continua crescita, ci dicevi. Da quanti anni esiste il vostro sito? E poi quanti sono invece i siti, se sei a conoscenza, che fanno il vostro stesso servizio, Olivier? Tra l'altro poi ti voglio chiedere una curiosità, perché l'autostop, che sarebbe la stessa cosa come si faceva una volta, adesso non va più di moda? Sì, allora, per quanto riguarda la situazione del nostro sito, postinauto.it, l'abbiamo lanciato nel 2010, sì. Febbraio 2010, quindi sono poco più di 2 anni che siamo online. Nel frattempo in Italia ci sono forse 20 o 30 siti simili, no, che cercano di mettere in contatto passeggeri e conducenti, sì. Però noi ecco puntiamo su non solo su una piattaforma dove appunto ci si può incontrare per scambiare un passaggio, ma noi vogliamo fornire anche una serie di meccanismi per la sicurezza che permettono di rendere appunto il viaggio insieme in auto un'esperienza il più possibile sicura. Quindi appunto abbiamo il viaggio rosa per le donne di cui parlavo prima, abbiamo il controllo del numero della targa, il controllo dei documenti, la possibilità commenti di feedback sugli utenti, di vedere una foto, il profilo di Facebook. Insomma, ci sono un po' di garanzie accessorie che così danno una mano a creare fiducia, perché poi anche di questo si parla. Ma dicevo, l'autostop, no? Non va più di moda, oppure c'è qualche legge, io mi sono distratto, è diventato, non si può più fare, no? No, non è illegale, è illegale l'autostrada, ma non sulle strade statali, però oggigiorno, ecco, con la diffusione di internet, magari ha poco senso aspettare delle ore al bordo della strada senza sapere neanche se poi si riuscirà effettivamente a trovare qualcuno che vuole percorrere la stessa tratta, quindi tanto vale cercare un conducente su internet. Certo, non è più gratuito, sì, perché si condividono le spese, è anche un po' meno avventuroso, però insomma è più pratico, si sa quello a cui si va incontro e la cosa funziona. Va bene, grazie Oliver Bremer, uno dei fondatori di postinauto.it, uno dei tanti siti dove potete rivolgervi se volete fare il vostro viaggio in condivisione. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, buona domenica e buona Pasqua. Ogni settimana a quest'ora su Radio 24 cerchiamo di portare un po' il buon umore scovando tra le pieghe dell'attualità, delle notizie della settimana, qualche buona pratica, qualche piccola storia virtuosa. C'è un lavoro straordinario, oggi non è più di moda, non ha sosta, non ha orario, io conosco chi lo fa. Legge il cielo della sera, sente l'aria del mattino, con cappella e canottiera, il mio nonno è contadino. Eccoci qua, lo zecchino d'oro. Se i bambini ci dicono che cosa ci accadrà nel futuro, allora vorrà dire che nel futuro ci sarà ancora spazio per il mestiere del contadino, un mestiere che esercita sicuramente un certo fascino, almeno tra i bambini, se ne parla nei film, nelle canzoni, nei cartoni animati. Ma chi lo fa veramente al giorno d'oggi il contadino? Al di là di chi lo fa per lavoro, c'è una vera e propria mania dilagante, quella degli orti fai da te. Sono quasi 8 milioni gli italiani, secondo una recente ricerca di Nomisma presentata in occasione della fiera di Brescia Vita in Campagna proprio qualche giorno fa. Gli italiani per i quali il pollice verde diventa un passatempo, naturalmente en plein air. C'è chi cura il giardino, chi fa l'orto sul terrazzo di casa, ci sono i pensionati che li vediamo gestire quei piccoli appezzamenti di terra ai bordi delle periferie della città, e c'è chi fa l'orto sinergico, come il caso di Marco Zioni di Parma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Nella vita programmatore informatico, per hobby coltivatore di orto sinergico insieme a un gruppo che è il Circolo per il Movimento della Decrescita Felice di Parma. Che cos'è, Zioni, l'orto sinergico prima di tutto? Allora, l'orto sinergico è un metodo di coltivazione un po' diverso da quello tradizionale. L'orto sinergico è un modo per creare un orto in sinergia con le piante e utilizzando queste piante con associazioni, quindi consociandole fra di loro al fine di autodifenderlo. Quindi nell'orto sinergico non si concima, non si zappa, si pianta e si semina unicamente. Senta, ma scusi l'ignoranza, io non ne ho mai sentito parlare con questa espressione, ma è un nome nuovo per una cosa vecchia, visto che l'agricoltura è vecchia quanto il mondo, o è un concetto appunto del tutto nuovo? Ma in realtà sono pratiche che venivano già usate dai contadini molto tempo fa. Fukuoka, un giapponese, all'inizio del secolo li mise su carta, cominciò a fare qualche esperimento e vide che funzionava, quindi iniziarono così. Attualmente è stato un po' più schematizzato, un po' più ragionato e si applicano anche delle nuove tecnologie per farlo. Ci racconti anche un po' la vostra storia lì a Parma? Siete un gruppo di persone appunto di questo circolo del movimento sì, per la decrescita felice. Insomma, vi siete messi insieme, avete trovato un pezzo di terra da una persona, ci lavorate in 5 o 6, il pezzo di terra non è grosso, però questo è abbastanza esemplificativo, 80 metri quadri, di quello che può essere un interesse davvero per questi 8 milioni di italiani che sono interessati da questo. Ci racconti un po' la vostra storia. Sì, noi facciamo sostanzialmente una sperimentazione, perché questo orto è nato quasi per scherzo, per vedere se eravamo capaci soprattutto, per poi ingrandirlo su larga scala, avendone le possibilità in un futuro, creando delle vere e proprie reti di orti sociali. Certo, lei che fa il programmatore informatico non è che di partenza aveva delle qualifiche, avete imparato strada facendo? Sì, beh, io sono un agronomo, quindi qualcosa di base ce l'avevo, però in agronomia non abbiamo studiato cos'è l'orto sinergico e si studia invece l'agrochimica, quindi è una cosa un po' diversa. Che invece a voi non interessa l'uso della chimica, aver capito, no, anzi. Quindi cerchiamo di combattere questo tipo di pratiche neoagricole che comunque non vanno nella direzione dell'ecosostenibilità. Quindi i messaggi che ci sono nel vostro lavoro, i valori aggiunti, diciamo, sono più d'uno, perché abbiamo l'idea, diciamo, dell'autoproduzione, quindi una forma anche di risparmio per quanto riguarda frutta e verdura, cibi sani, perché mi diceva tutto biologico, e poi c'è anche questa forma di collaborazione tra di voi, perché siete un gruppo sinergico, anche voi mi verrebbe da dire, di persone che si danno una mano. Non credo che andrete tutti i giorni, altrimenti diventerebbe un lavoro. L'orto sinergico dà proprio questa opportunità, cioè quindi consumare meno tempo avendo una massima resa. Noi ad esempio andiamo solo il sabato mattina o la domenica, quindi perché l'orto sinergico è un qualcosa che si autosostiene, non richiede grosse pratiche, tranne che inizialmente, e poi dopo va da sé, quindi si autoequilibria e ci dà i nostri risultati. Ecco, voi avete fatto il primo anno da poco, mi diceva prima dell'intervista, e il primo parziale bilancio vi spinge a proseguire in questa iniziativa? Certo, anche perché l'orto sinergico entra in piena produzione dopo il terzo o quarto anno, quindi siamo nel percorso e ogni anno riceviamo delle soddisfazioni sempre maggiori, perché appunto la natura richiede lentezza e richiede equilibrio che non si può avere in pochi mesi. Va bene, grazie. Allora, insomma, aspettiamo che arrivino i frutti di questo orto sinergico. Ci vorrà un po' di tempo, ci risentiremo. Marco Zioni di Parma. Buona giornata, buona Pasqua anche a voi del Circolo per la Decrescita Felice di questa città. Insomma, un'idea, come tante ce ne possono essere, per darsi da fare, in questo caso autoproduzione, cibi sani e anche collaborazione. Io credo anche felicità per chi si diverte con questa passione. Noi aspettiamo durante la settimana le vostre segnalazioni su Facebook, si può fare /radio24, ma anche sulla nostra segreteria telefonica. Sentite per esempio questa ascoltatrice a proposito proprio di terreni abbandonati, che possono essere secondo lei anche una soluzione anticrisi. Tutti i campi abbandonati che abbiamo in Italia, che sono tantissimi, potrebbero essere sfruttati in modo molto più intelligente. Come? Lo Stato potrebbe darli, regalarli temporaneamente a imprenditori che potrebbero lavorarci, sviluppare fabbriche, sviluppare agricoltura, con magari 10 anni senza tasse, e poi in quel modo dopo 10 anni sarebbe un terreno molto più produttivo e ci sarebbero anche nuovi imprenditori che produrrebbero nuove tasse, quindi con un vantaggio anche per lo Stato, e non avremmo abbandono del nostro meraviglioso territorio. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ma si può fare! Si può fare! Si può fare! Si può fare! Si può far crescere l'occupazione in un periodo di magra in cui non si parla altro che di dati negativi sul fronte dell'occupazione, perché molti settori, quasi tutti, contano un saldo negativo degli occupati, e invece si può scoprire nel campo della green economy, per esempio, che le cose vanno diversamente. La Coldiretti della Lombardia ci segnala che c'è stato un incremento, per esempio in questa regione, di addetti. Sono 3.000 i lavoratori lavoratori addetti nelle 1300 realtà lombarde, in particolare i mercati contadini sembra una realtà in evoluzione e dal 12 aprile ce ne sarà una nuova di botteghe di Campagna Amica, si troverà in, proprio nella città di Milano in pieno centro, verrà inaugurata appunto giovedì prossimo. Noi abbiamo convocato il presidente della Coldiretti Lombarda, Ettore Prandini, buongiorno e buona domenica anche a lei. Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Per festeggiare questa notizia positiva sul fronte dell'occupazione, che tipi di posto di lavoro sono, Prandini, quelli che si stanno creando in questo periodo? E chi è che viene assunto? Qual è il profilo? Giovani, adulti, italiani, stranieri? Ci racconti un po'. Ma il profilo è sicuramente di nuove figure impiegate in ambito agricolo, sono molti giovani che entrano a far parte del comparto agricolo, come dicevamo prima, e soprattutto grazie a un'iniziativa che Coldiretti da qualche anno sta sostenendo, che è anche grazie alla multifunzionalità e soprattutto alla vendita diretta dei prodotti agroalimentari, alle botteghe di Campagna Amica, ma anche grazie agli agriturismi. Quindi in Lombardia in 4 anni siamo riusciti ad impiegare circa 1000 persone che diversamente non sarebbero mai entrate a far parte del mondo agricolo. Ecco, ma le figure principali sono nella produzione, quindi per esempio la figura del contadino o del coltivatore diretto, visto che voi siete la Coldiretti, oppure anche nel campo della distribuzione dei prodotti alimentari? Ma sono, diciamo così, in entrambi i casi, perché abbiamo dei giovani che si sono avvicinati ad esempio al mondo degli agriturismi e quindi svolgono sia un'attività di trasformazione, di proposta di piatti locali, territoriali e quindi anche di coltivazione però dal fondo, perché ovviamente l'agriturismo ha nella sua natura il fatto di utilizzare prodotti che provengono direttamente dall'azienda in cui uno poi va a trovarsi o a cercare una ristorazione diversa rispetto a quella tradizionale, e dall'altra parte invece anche nella somministrazione per quanto riguarda invece il discorso della vendita di prodotti agroalimentari e anche in questo caso con un'iniziativa del tutto nuova, perché i Farmers Market è circa 3 anni che noi li abbiamo presenti nelle nostre città e nelle nostre province e ovviamente hanno avuto un grande successo, basti pensare che solo nell'ultimo anno è stato il settore che più di altri è cresciuto. Ecco, ma può diventare, Prandini, questo voglio dire anche un modello di sviluppo, insomma, passare da quella che può essere una nicchia interessante, insomma, in via di sviluppo, dove si puntano anche gli occhi, l'attenzione, diciamo così, della stampa, perché si producono posti di lavoro in questo settore dell'agricoltura, del biologico, come diceva lei, e via discorrendo, oppure può diventare anche proprio un modello economico per anticrisi e per creare davvero posti di lavoro? Ma guardi, le faccio un esempio. Se noi riuscissimo a risolvere il problema della contraffazione dei prodotti agroalimentari, solo in Italia riusciremmo a recuperare circa 300.000 posti di lavoro. Quindi penso che l'agricoltura sia sicuramente un settore importante sul quale bisogna investire e che può dare sicuramente delle risposte altrettanto importanti, e nei settori che prima citavamo, quindi la vendita diretta, gli agriturismi, le botteghe di Campagna Amica, ovviamente non andranno a sostituire quella che è l'agricoltura tradizionale in termini di importanza, ma possono essere sicuramente un incentivo in più nel confronto del mondo dei giovani e anche delle aziende già strutturate per avere una forma di sviluppo diversa rispetto a quella tradizionale che c'era nel passato. Sì, e facciamo in chiusura una piccola digressione milanese e parliamo di questo nuovo punto vendita dentro la Cascina Cuccagna, una realtà che alcuni milanesi conosceranno e che verrà lanciata tra qualche giorno. Sì, proprio il 12 andremo a inaugurare questa bottega di Campagna Amica alla presenza di tante autorità, dove i cittadini di Milano potranno trovare tutti quelli che sono i prodotti che provengono direttamente dalle imprese agricole sotto forma appunto di bottega, ma soprattutto potendo sapere e avendo tutte le informazioni che desiderano sulla provenienza del prodotto agroalimentare. Quindi un'iniziativa sicuramente importante, un'iniziativa iniziativa che alla base ha l'informazione per il consumatore, ovviamente dando anche una risposta in termini economici, perché i prodotti che noi andiamo a vendere sono concorrenziali anche sotto questo punto di vista. E allora ci troveremo lì alla bottega della Coldiretti, insomma all'interno della cascina Cuccagna di Milano, e a vedere che aria tira in questo senso, per quella che è sicuramente una nuova tendenza che però si sta rinforzando. Grazie Ettore Prandini, presidente della Coldiretti Lombarda, buona domenica e buona Pasqua anche a lei. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti, e vi aspettiamo ovviamente numerosi alla cascina Cuccagna. Si può fare cronache da un paese migliore. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. La settimana scorsa, non so se vi ricorderete, avevamo incontrato dei ragazzi che curano un programma radiofonico nato all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Pisa. Collega Menti si chiama questa trasmissione, che va in onda su Punto Radio, una emittente toscana, sulle frequenze di 91.1 91.6 in Toscana. Insomma, abbiamo parlato con loro, abbiamo fatto loro conoscenza, persone che comunque fanno riferimento al servizio sanitario in quanto persone con un disagio psichico alle spalle, persone che insomma cercano di ricostruirsi una vita, e questa esperienza radiofonica sembra aiutarli. Risentiamo allora un momento della nostra chiacchierata quando abbiamo intervistato David e Dana. Noi siamo un programma nato, fatto di persone, comunque nato all'interno di una ASL 5 del centro di igiene mentale. Sì. Comunque noi abbiamo trattato un po' di vari argomenti, quindi un po' variegato. Gli ultimi argomenti che abbiamo trattato, sì, abbiamo parlato della mafia. Quindi abbiamo trattato un argomento così scottante che riguarda non solo il nostro paese, ma riguarda un po' tutto il mondo. Ho portato del materiale su due puntate che mi sono piaciute di più. Sì. A proposito intanto della dipendenza, che è un fenomeno del nostro tempo, dalla tecnologia. La dipendenza dalla tecnologia. Sì, come la dipendenza dai telefonini, da Facebook, queste cose qua, che sta diventando un fenomeno abbastanza globale e pericoloso, insomma. Insomma, c'è gente attaccata a internet per ore. Sì, ci sono fenomeni proprio di malattie psicologiche che comportano questa dipendenza. Insomma, una esperienza questa di Collega Menti, un programma nato, come dicevamo, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale di Pisa, ma ci sono esperienze in tutta Italia di radio dove lavorano persone che hanno alle spalle disturbi psichici. Insomma, un'esperienza che serve per socializzare, per provare così a ricostruire una rete di relazioni. C'è però un punto sempre molto difficile da affrontare in queste situazioni, ed è quello della ricerca di un lavoro, cioè insomma recuperare anche delle condizioni materiali per una vita, per una esistenza. Allora, proprio di questo, di come cioè aiutare i malati psichici gravi in questo caso a entrare nel mondo del lavoro, si occupa il progetto Lavoro e Psiche, realizzato in Lombardia e sostenuto dalla Fondazione Cariplo. Il progetto coinvolge 150 malati psichici che, oltre ad avere le cure mediche, vengono seguiti da un coach che provvederà anche alla loro formazione professionale. La nostra collega Alessandra Tedesco ha intervistato Filippo Petrolati, che è responsabile del progetto per la Fondazione Cariplo. Questi coach pianificano per lui un percorso che lo porta a essere, come dire, competitivo sul mondo del lavoro, e quindi si parte dalla cura, quindi, che è assegnata chiaramente al gruppo curante, allo psichiatra, e poi si cerca di fare un percorso che prevede una riabilitazione, può prevedere una formazione, può prevedere aspetti anche al di là di un percorso di vita, quindi i rapporti con la famiglia, quelle che sono le associazioni sportive, insomma, per rendere una persona appetibile per il mondo del lavoro, nonostante quelle che sono i suoi disagi. Ma facendogli fare questo percorso si può arrivare a un tirocinio in azienda, o in cooperativa. Dal tirocinio in azienda ci può essere un inserimento lavorativo con quelli che sono anche gli sgravi disponibili e tutte quelle che sono le opportunità possibili, insomma. Quindi l'inserimento nel mondo del lavoro non solo nel settore pubblico ma anche nel settore privato? Sì, assolutamente sì, ci sono diverse le aziende, come sappiamo hanno al di sopra dei 15 dipendenti, ci sono degli obblighi di assunzione di determinate persone con determinate disabilità certificate. Quindi chiaramente esiste il nostro interlocutore principale è l'azienda privata, nonché anche l'ente pubblico, perché no, quello sicuramente. In genere c'è molto pregiudizio nei confronti dei malati psichiatrici. Secondo lei le aziende come possono rispondere a questa iniziativa? Beh, è vero, nel senso che uno dei grossi problemi è proprio lo stigma sociale a cui sono sottoposte queste persone con disturbi psichiatrici. Qui si tratta di fare un lavoro culturale, infatti i tavoli tecnici, oltre a supportare i coach nel loro lavoro, perché sono comunque dei soggetti nuovi che interagiscono con i servizi già presenti all'interno del contesto regionale, perché noi operiamo chiaramente in Regione Lombardia come Fondazione Cariplo, stanno attivando anche tutta una serie di attività di sensibilizzazione sui territori rispetto proprio a quello che è lo stigma a cui sono sottoposti queste persone con disturbi psichiatrici. Quindi esistono una serie di attività nei quattro territori in cui stiamo sperimentando, proprio che hanno l'obiettivo di ridurre quello che è il pregiudizio a cui oggi il paziente psichiatrico è sottoposto, attività principalmente di sensibilizzazione, coinvolgimento della collettività, delle aziende, eccetera, eccetera. E questa è dunque la strada che si tenta di percorrere in Lombardia per dare anche un lavoro alle persone che hanno dei disagi psichici. Una delle tante storie della puntata di oggi. Noi aspettiamo in settimana le vostre segnalazioni sul profilo Facebook si può fare trattino Radio 24, alla nostra mail si può fare @radio24.it. In questa puntata abbiamo parlato insomma anche della voglia che c'è in giro di vivere e di lavorare in campagna. Abbiamo sentito i dati della Coldiretti sui Farmer Market e proprio questo dei lavori che una volta venivano definiti umili sembra essere una chiave che unisce un po' tutti gli argomenti della giornata di oggi, in fondo come suggerisce anche questo ascoltatore alla nostra segreteria telefonica 800 28 12 12. Vi ricordo, chiamate durante la settimana un messaggio per un minuto per salvare l'Italia. Allora, il mio messaggio è quello di riprendiamoci i posti di lavoro che nessun italiano vuole più fare. I posti di lavoro sono quelli del falegname, quelli del muratore, tutti i posti, milioni di posti di lavoro che l'italiano, perché ormai ha molta più cultura delle altre popolazioni che sono entrate in Italia, non vuole più fare, però ritorniamo indietro. Io ho un'azienda di porte e finestre, mi continuo a portare le finestre sulle scale insieme ai miei ragazzi, non riesco a trovare un italiano che voglia fare questo lavoro, cosa che io ho fatto circa 20 anni prima di diventare imprenditore. Ritorniamo indietro, rimettiamoci a fare quei lavori, quello del falegname, muratore, dietro i ristoranti, cuochi, non c'è più un italiano che vuole fare un lavoro del genere. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Grazie per essere stati con noi in nostra compagnia. Io ringrazio anche Franco Piantanida per l'assistenza in redazione, Valeria Bernardi in regia, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Alessio Maurizio un saluto, l'augurio di una buona domenica, di una buona Pasqua e soprattutto di una buona settimana.